Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, vi propongo un viaggio a ritroso nel tempo. Torniamo a più di 30 anni fa, agli anni 80, quegli anni che magari diranno poco ai trentenni di oggi, ma che dicono molto alla generazione alla quale appartengo anch'io, che in quegli anni cominciava a muovere i primi passi nella vita professionale. Furono anni decisivi quegli anni 80, si uscì dagli anni di piombo, si entrò nel riflusso segnato dall'elezione di Reagan e della Thatcher, tramontò la fede nell'ideologia e dal comunismo si passò rapidamente al consumismo con un forte recupero dell'individualismo. In Italia come si manifestò questa trasformazione che abbracciò praticamente tutto il mondo occidentale? Ce lo spiega un giornalista di Trento, Paolo Morando, nel libro 80, l'inizio della barbarie, pubblicato dalla Terza, 232 pagine, 16 euro. Morando in questo libro ci presenta cinque Italie: quella nordista, cioè quella leghista, l'Italia paninara, l'Italia becera, l'Italia rampante, l'Italia razzista. Non sono cinque belle Italie quelle descritte da Morando, che è complessivamente negativo su quegli anni. Anni che peraltro in giro per i social media, dice l'autore stesso, godono di ottima stampa e di grande nostalgia. Ma la memoria, aggiunge l'autore, è una brutta bestia perché, spiega, non ci si può contare fino in fondo. I meccanismi dell'oblio, oltre che sfuggire spesso alla logica, sono anche in grado di far sparire cose gigantesche, eventi lì per lì epocali, personaggi a un certo momento imprescindibili, fenomeni di massa che nel loro svolgersi richiamano una frase oggi abusata: nulla sarà più come prima. E quindi Morando scava in questo possibile serbatoio di ricordi anche rimossi e ci ricorda con una puntigliosa ricostruzione tra giornali, film, musica e soprattutto televisione gli episodi ai suoi occhi decisivi per cambiare non sempre in meglio l'Italia. Ma sentiamo l'autore. Buonasera Paolo Morando. Buonasera. Paolo Morando, il suo libro si intitola L'inizio della barbarie. In queste ultime settimane di barbarie ne abbiamo viste molte, anche molto più sanguinarie di quelle di cui parla il certo. Suo libro. Non le sembra un po' sproporzionato alla fine questo titolo rispetto anche ai contenuti del libro? Sì, il titolo è anche volutamente, se vogliamo, un po' provocatorio, anche se poi chiaramente il contenuto del libro come dire, giustifica anche un po' la scelta, perché racconta cose che, certo, paragonate magari alle tragedie di questi giorni, possono sembrare sicuramente meno tragiche, appunto. Però vi furono episodi barbari anche nell'Italia degli anni Ottanta, che invece ricordiamo tutti come un'età di lustrini e spensieratezza. Manifestazioni barbare che poi hanno lasciato tracce nella storia successiva del paese e nella società italiana soprattutto. Beh sì, in particolare forse la termine barbarie è abbastanza azzeccato, se vogliamo, per un capitolo che è in particolare riferito all'Italia razzista, e cioè a quanto avvenne nel nostro paese nella seconda metà degli anni Ottanta, quando iniziarono ad arrivare, insomma, quelli che chiamavamo vucumpra, no? Con un certo spregio, magari anche scherzoso, ma insomma, probabilmente l'Italia si è un po' dimenticata che negli anni Ottanta di questi vucumpra, che certo erano in misura nettamente inferiore alle masse di disperati che arrivano oggi dal mare, ma insomma alcuni di questi vucumbra li abbiamo accolti a sprangate e alcuni gli italiani li hanno anche ammazzati, insomma, quindi da questo punto di vista la barbarie, insomma, ci sta, tiene. E come ho spiegato prima, il suo libro è montato, diciamo, sulla descrizione di cinque Italie. A conclusione di questo suo viaggio, secondo lei, posto che in quegli anni cambiò tutto il mondo, non soltanto l'Italia, qual è stata la caratteristica veramente italiana di questo cambiamento? Qual è la differenza di quell'Italia e degli Stati Uniti che hanno dato vita al fenomeno Trump? Ma io credo forse questo, che il fatto che in quegli anni vi fu certamente un arricchimento generale della società italiana, un maggiore benessere. Erano anni in cui il PIL viaggiava a botte di 5-6 punti percentuali in più ogni anno, non lo 0, su cui fanno i brindisi oggi i nostri ministri. Insomma, questo arricchimento, che certo fu un dato positivo dopo il decennio degli anni di piombo, insomma, però ebbe anche delle strutture tutte italiane, se vogliamo. Fu anche in quegli anni che arrivarono a compimento gli effetti di un provvedimento del governo di alcuni anni prima, insomma, si arrivò alle baby pensioni, donne in pensione a 29 anni e 3 mesi, anche questo lo racconto nel libro, ma forse più in generale io lo sintetizzerei così: il fatto che in quegli anni l'Italia ha senz'altro pensato che di potersi permettere un po' tutto da un punto di vista meramente economico, se vogliamo, e a un livello etico, se vogliamo, che tutto era permesso, no? E quindi anche un sacco di cose che certo sono state deteriori che anche oggi ce ne ricordiamo, forse questa sia la caratteristica dell'Italia, dell'Italia degli anni Ottanta, un certo modo di intendere la contrapposizione civile, il dibattito politico anche in maniera molto becera, volgare. Io credo che questo sia lo specifico dell'Italia degli anni Ottanta. Ma secondo lei le Italie degli anni precedenti erano tanto migliori, l'Italia parrocchiale, l'Italia comunista? No, no, assolutamente no. Ma tanto per stare vicino agli anni Ottanta, agli anni Settanta, sono stati certo da dimenticare. Io vorrei, ecco, che questo fosse chiaro. Nulla è più lontano da me dal pensare agli anni Settanta come un'epoca gloriosa dopo la quale gli anni Ottanta dell'edonismo, del riflusso e del disimpegno sono da buttare via. Per carità di Dio, negli anni Settanta ci si sprangava e ci si ammazzava per ragioni politiche. Negli anni Ottanta, se vogliamo, faceva un po' ridere che non ci si sprangava, ma magari ci si prendeva a botte per derubarsi di un Moncler in piazza San Babila. Quindi molto meglio questo, certo, che non ammazzarsi per ragioni politiche tra giovani ogni sabato a Milano. Questo no, questo no. Però forse il frutto di quella spensieratezza ha portato anche a manifestazioni, insomma, della pancia del paese che ci potevamo risparmiare e che, se vogliamo, sono un po' anche quelle che continuiamo a vedere anche oggi nei social forum. Io racconto abbastanza lungamente un episodio dell'estate dell'86 quando Radio Radicale cominciò a trasmettere in diretta le telefonate dei propri radioascoltatori. All'inizio erano telefonate di sostegno alla radio, poi si trasformarono in un ammasso di violenza, di beceraggine, appunto, di volgarità a tutti i livelli, uomini contro donne, juventini contro romanisti, paninari contro metallari, meridionali, anzi settentrionali contro meridionali e così via. Forse in quel momento si è pensato che, appunto, liberi tutti, però quello che è uscito è anche questo. Infatti lei scrive che il filo conduttore di quelle telefonate, il denominatore comune, fu prima di tutto l'odio. L'odio che, appunto, oggi spesso dilaga sui social forum. Sì, sì, in quel momento, come dire, lo strumento era il telefono che consentiva, no, l'anonimato, ma se vogliamo consentiva anche di rapportarsi alle trasmissioni televisive, al momento in cui Raffaella Carrà fa i giochini dei fagioli, no, la mattina, quanti fagioli sono nascosti nel grande contenitore, si telefonava, insomma c'era questo feedback per la prima volta. Per la prima volta il paese reale poteva esporsi, poteva dire la sua. Allora lo faceva anonimamente col telefono e nelle manifestazioni peggiori accadeva quello che accadeva come in quell'estate con Radio Radicale. Oggi basta un computer, basta un telefonino, basta un social network, e, insomma, lo sappiamo bene, tutti i giorni i commentifici alle notizie dei giornali diventano molto spesso bacheche di vergogna, insomma, di cose assolutamente terribili. Per restare solo in ambito radicale, riferito a Radio Radicale, basta ricordare cosa accade quando Emma Bonino disse, no, che era malata di tumore. In quanti in internet lavorarono la morte ed erano ancora le cose forse meno gravi, insomma. Quindi voglio dire, da questo punto di vista poco è cambiato. E anzi, forse si è aggravata l'ondata di volgarità che partì in quegli anni. Io credo proprio di sì. È partita allora e non si è mai fermata. Tutto questo, ripeto, non è per dire che prima andasse meglio, Prima probabilmente c'erano anche più remore, c'era anche meno possibilità di poter dire la propria. Le pagine dei giornali riservate alle lettere dei lettori non erano consuetudine come oggi da molti anni, insomma. Però, insomma, nel momento in cui c'è stata questa possibilità finalmente concreta di uscire dai gusci, non è che è sempre uscita una farfalla, le volte sono rimasti i bruchi. Adesso questa canzone ci introduce al tema dei paninari. Lei si diffonde uno dei capitoli dedicato proprio ai paninari, i protagonisti di un periodo molto brillante di quegli anni. Alcuni testimoni che hanno partecipato a quell'esperienza oggi tendono un po' a sottovalutare, a ridimensionare il significato di quegli anni. Fu un fenomeno passeggero, giovanilistico, che in fondo non ha lasciato traccia. Lei la pensa in maniera diversa, mi sembra. Beh, no, allora intanto sì, certo è stato un fenomeno giovanile e quindi, come dire, va anche dimensionato in quella misura, però è importante perché fu forse l'unico fenomeno di cultura giovanile che l'Italia, se vogliamo, ha regalato alla storia mondiale, alla storia internazionale delle culture giovanili. Basta, perché il paninarismo, paninaresimo, come lo vogliamo chiamare, è uno specifico tutto italiano. Io ricordo ad esempio che un gruppo allora famoso musicale inglese, i Pet Shop Boys, fecero una canzone che si intitolava Paninaro, con video ripreso a Milano tra le vetrine di Via Monte Napoleone, in Emporio Armani, in Piazza Duomo e così via. Quindi, insomma, i paninari sono uno specifico italiano perché non esistono altrove. Ora, che cosa fosse questa moda? Se solo, come dire, la predilezione per il vestirsi griffati, se era solo questo, io non lo so. Ho un'idea un po' diversa. Sta di fatto che anche oggi, a distanza di 3 decenni ormai, pullula il web di siti, di blog assolutamente riservati ai nostalgici del paninarismo, appunto, e basta andare a leggerli e si scopre che l'orgoglio paninario, insomma, nasconde anche un qualche cosa di classista, ma non lo nasconde proprio in realtà, molto spesso è assolutamente esplicito. Io riporto molti di questi dialoghi, non di 30 anni fa, ma di oggi, in cui questo emerge abbastanza chiaro. C'è un reducismo paninario, insomma, ma tutti hanno nostalgia di quando avevano 20 anni, in fondo. Ma infatti io inizio il libro dicendo, guardate, gli anni 80 sono un po' ricordati come tutte queste cose, quindi le musiche, le serie televisive, le canzoni, le merendine, i giochini, i programmi e così via. Di tutto questo sappiamo tutto, il web è schiuma nostalgia da questo punto di vista, però la nostalgia però bisogna stare un po' attenti, perché a volte può essere un'arma di distrazione di massa che ci fa dimenticare altre cose che accadevano in quegli anni. Io stesso in quegli anni ero liceale, per cui è chiaro che guardo quegli anni con nostalgia e non mi accorgevo di altre cose che accadevano. Lo slogan Forza Etna, no? Se vogliamo, è una cosa banale, sciocca, geniale dal punto di vista proprio di brand pubblicitario, un copywriter non avrebbe potuto dire meglio, però insomma Forza Etna è sopravvissuto 30 anni negli stadi e non più tardi di qualche mese fa una ex consigliera provinciale della Lega Nord in Brianza è stata rinviata a giudizio per istigazione all'odio razziale per aver utilizzato, guarda caso, in internet, su Facebook, questo slogan. Quindi queste cose magari ci si accorgeva poco, però sono queste forse che sono rimaste persistenti anche oggi, negli anni 80. Però facciamo un'osservazione fra giornalisti. Un segno di civiltà era che allora questi fenomeni davano vita anche a dei giornali, per esempio appunto il Paninaro. Oggi nessuno avrebbe in mente di fare un giornale. Certo. E fu un giornale di straordinario successo, perché era un mensile di fumetti, poi di foto, di pubblicità, di moda, appunto, che a un certo punto arrivava a vendere 150.000 copie, che è un risultato enorme per l'editoria. Firmeremmo noi oggi. Oh, mamma mia, credo tutto ineguagliato, insomma. Per cui, ecco, da questo punto di vista la moda era anche, come dire, sfruttata commercialmente, ma come è abbastanza normale che sia. E c'è da dire che molte delle persone che poi gravitavano attorno al mondo dei paninari, alla stessa rivista, poi hanno fatto anche una certa carriera. Io cito ad esempio Filippo Facci, che tutti conosciamo come editorialista di Libero, mi pare adesso, e comunque personaggio televisivo, opinionista, insomma era tra i collaboratori delle riviste Paninaro e Sfitti, mi pare che sia la seconda riservata alle ragazze. Una bella scuola di vita. Grazie a Paolo Morando, autore di 80, l'inizio della barbarie. Buona serata. Grazie a voi. Un titolo molto simile è 1980 di David Peace, che è uno dei più noti scrittori inglesi, pubblicato da Saggiatore, 394 pagine, 21 euro, tradotto da Marco Pensante, che è la riproposizione di un volume del 2002, che è il terzo di una serie intitolata Red Riding Quartet, dalla quale è stata anche tratta una fortunata serie televisiva. Il tema è forte, la cronaca della caccia e delle gesta di un killer seriale che colpisce nello Yorkshire e uccise veramente 13 donne. Il testo è ben più che un noir, però, perché lo stile vorticoso e inimitabile di Pierce dà una concitazione letteraria unica all'opera, dominata dalla descrizione di un'Inghilterra decaduta e impoverita, come si presentava appunto in quegli anni. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vi propongo adesso due autori giovani o emergenti. Il primo è Christophe Palomar, che così si presenta. Viaggia da sempre per necessità, per obbligo ma per piacere, eppure non potrebbe fare diversamente. Legge in spagnolo, pensa in francese, scrive in italiano, anche se per lavoro usa il più delle volte altre lingue. Non sappiamo quindi molto di più dell'autore, che inaugura con questo suo primo romanzo l'attività editoriale di una libreria milanese, la libreria Utopia, che diventa appunto anche editore. In bocca al lupo. Il titolo del libro è Frida, Un'educazione sentimentale del Novecento, 320 pagine, 16 euro. Il romanzo ci proietta nella Mitteleuropa grazie a un diario, un taccuino, per meglio dire, due volte smarrito e due volte ritrovato, che ci parla di una nobile famiglia tedesca. Un geologo ritrova una sorta di diario dell'ultimo discendente, accompagnato da una lettera del figlio che morirà in Sud America. Il protagonista è appunto Frida, un personaggio storico, Frida von Richthofen, che è nota per essere stata la compagna dello scrittore inglese D.H. Lawrence e che prima aveva fatto capitolare molti uomini, tra cui lo stesso protagonista del libro, cioè il von Trilli, il che la conobbe a Capri. Nel frattempo la situazione precipita verso la guerra, la prima guerra mondiale, anche se sotto un cielo di miele. Scrive l'autore per sottolineare l'aria trasognata di quella Mitteleuropa che andava verso il disastro. Si susseguono gli episodi drammatici. Insomma, scrive Palomar, il treno della storia continuò la sua folle corsa. E qui abbiamo la descrizione di quel vecchio mondo dopo la prima guerra mondiale. L'altro autore italiano, giovane, classe 1972, è Matteo Righetto, di professione insegnante, ma già autore di vari libri. E l'ultimo che ha scritto si intitola Apri gli occhi, pubblicato da Tea, 158 pagine, 13 euro. Questa è la storia di una coppia che si spacca e che trascina nei propri detriti la giovane vita del figlio. I due coniugi si ritroveranno dopo una tragedia e decideranno di farlo con un'ascensione sulle Dolomiti che si rivela un pochino più complicata del previsto, ma che consente loro, rievocando gli anni sereni col figlio, di tentare un bilancio su se stessi. A proposito di montagna, vi segnalo la storia di un'amicizia tra due generazioni da 0 a 8000 metri. Questo è il sottotitolo del libro di Mario Curnis, di 80 anni, e Simone Moro, di 49 anni, entrambi famosi alpinisti, che firmano un libro curato da Angelo Ponta, Incordata, pubblicato da Rizzoli, 250 pagine, 18 euro. Ponta raccoglie le risposte dei due alpinisti ad alcune questioni relative al loro rapporto con la montagna e sulle rispettive esperienze. Naturalmente vengono fuori dal libro due caratteri e due vite molto diversi. Come testimoniano queste righe? Le prime sono di Curnis sulla propria vocazione, la seconda del giovane Moro che affronta un tema che non è tabù nemmeno in montagna, quello dei soldi. Per me l'alpinista è uno che ha un suo lavoro e che poi va in montagna per suo piacere o sfogo, e basta. Certo, il professionismo è una cosa diversa. Per questo vado d'accordo con Simone. Lui così intelligente, io ignorante, ma di un'ignoranza che a me sta bene. È informato, è al passo con la tecnologia, però sa essere umile, sa chiedere. Anche in Nepal l'ho visto parlare con gente semplice con rispetto. Io non posso rimproverargli di accettare sponsor proprio perché la sua è un'altra scelta. Lui è preparato per questo. Un professionista deve essere colto, conoscere la storia dell'alpinismo, le lingue, presentarsi bene, saper viaggiare e saper trattare, cosa che non è da me, anche se fino a qualche tempo fa gestivo un'impresa. Con la montagna non riesco ad avere questo approccio. Forse inconsapevolmente ho visto in Mario quello che vorrei essere alla sua età, perché uno dei valori in cui ho sempre creduto è la longevità sportiva, intesa come un'esistenza condotta con rettitudine, nella quale lo sport è stato scuola di vita. Poi, ed è il caso di Mario, se hai anche la sorte di essere solido come una quercia, a 66 anni arrivi in cima all'Everest. Ma di uomini così non ne nascono più di 5 o 6 ogni secolo. Di sicuro, se anch'io andrò sull'Everest a quell'età, non sarà perché mi ci ha mandato uno sponsor o perché devo scrivere un libro. Probabilmente lo farò con lo stesso suo spirito, per il compimento di un mio sogno. Di Mario, quindi, ammiro l'energia, ma anche la lucidità. E quando mi parla della sua filosofia di vita, altro che lucido. Lui dà una ragione, un senso profondo a tutto. È per me un punto di riferimento anche alpinistico, dunque, ma non solo. Mario indica una via. Anche in questo spero un giorno di poter essere come lui, ovvero un uomo che al termine di un percorso è tornato da dove era partito. Perché Mario non è in esilio, nella baita dove vive. Sta lì perché tra i prati e i boschi ha ritrovato quello che trovò in montagna, in mezzo alla natura, alla sua vita a misura d'uomo. Ma vorrei approfittare del discorso sul professionismo per chiarire che lo sponsor, di solito, è uno splendido compagno di cordata. Infine un romanziere montanaro di Aosta, Claudio Morandini, che ha pubblicato Neve, cane, piede con Exorma, 142 pagine, 13 euro. Siamo in un vallone delle Alpi dove un vecchio vive in compagnia solo del cane, un cane che è arrivato quasi per caso, e di qualche corvo. Il vecchio è malato, smemorato, e deve affrontare la scoperta di un corpo che spunta da una valanga dell'inverno. Gli animali con i quali convive, il cane e i corvi, sono anche capaci di un dialogo con Adelmo, questo è il nome del protagonista, ma non si tratta di una fiaba, piuttosto della descrizione di una vita solitaria, anzi appartata, di cui sono protagonisti ormai poche figure. Infatti l'autore ci spiega in una nota che stupisce incontrare qualcuno di questi esemplari di persone nel bosco, in salito su un altopiano, e scoprire che solo un vecchio che l'isolamento e gli acciacchi hanno reso meccanico nei gesti e pietroso negli sguardi. Uno di questi fu incontrato dall'autore, appunto, e questo incontro fu condito con la fantasia e con le letture, oltre che con le reminiscenze della febbre dell'oro di Chaplin, che lo spinge ad una sfida, quella di raccontare un epos, cito ancora l'autore, pungente e ferino, di poche parole, di pochi gesti ripetuti, di fatica e sole a picco e tenebre improvvise, gelate e pantani, lotta quotidiana con le bestie e le pietre. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto il libro di un autore molto popolare, Francesco Guccini, che scrive Un matrimonio, un funerale, per non parlare del gatto, è pubblicato da Mondadori, 150 pagine, 15 euro. Questa è una serie di racconti simili, scrive l'autore, alla foto di un tempo, che vogliono parlare di persone che sono passate, che ci sono state, che hanno il diritto di essere ricordate. Poi vi segnalo di Mimmo Candito, che è uno scrittore giornalista molto impegnato su vari fronti di guerra, 55 vasche, le guerre, il cancro e quella forza dentro, è pubblicato da Rizzoli, 230 pagine, 17,50 euro. Dopo aver fatto appunto i conti con tante guerre e tanti conflitti, Candito racconta della sua personale guerra contro il tumore. Poi di Bianca Stancanelli vi segnalo La città marcia, racconto siciliano di potere di mafia, Marsilio, 272 pagine, 16 euro. Questo libro ci presenta le vicende di Palermo negli anni 80 e in particolare parla dell'omicidio avvenuto nel 1988 di Giuseppe Insalaco, che per breve tempo era stato sindaco della città fino a scontrarsi con la mafia ed essere ucciso, come già era capitato alcuni anni prima a Piersanti Mattarella, allora presidente della regione e fratello dell'attuale Presidente della Repubblica. Infine vi segnalo un romanzo di Massimiliano Parente, L'amore ai tempi di Batman, pubblicato da Mondadori, 354 pagine, 20 euro, dove troviamo un ex bambino prodigio della televisione trasformato suo malgrado in un Batman. È un ragazzo ricco, orfano, sfaccendato, che attraverso il travestimento e un'avventura iniziale scoprirà una dimensione nuova della sua vita. E a questo punto... Il confettino. Di Stagione di Natura scrive e illustra Joe Weaver in Piccola Orsa, pubblicato da Orecchio e Cervo, 16 euro, tradotto da Carla Ghisalberti, in cui troviamo una mamma orsa che introduce la cucciola alla primavera e al passaggio delle stagioni. Con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Paolo Corleone in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona serata.